c'è una domanda. Non voglio interrompere, lo so che le domande di solito si fanno alla fine, però dal momento che è un elemento che ci portiamo appresso da tempo e che sta, secondo me, viene discusso in più momenti, in più ambiti del fare politica GLBT, e volevo richiamare un attimo due passaggi fatti negli interventi di Trento e di Catania per unirli in una prospettiva comune. Diciamo, da un lato l'episodio che segnalava la compagna di un episodio di sessismo all'interno di uno spazio politico, di uno spazio della sinistra, di uno spazio antifascista, diciamo. Ma non è tanto un episodio, sappiamo che ce ne sono tanti altri. Più in generale, da tempo le componenti gay, lesbiche e trans dei movimenti e femministe, poi da ancora prima, individuano, criticano e lavorano su quello che è il fattore sessismo e come si insinua anche in ambiti della politica dal basso, della politica liberata dall'antifascismo, diciamo. Dall'altro, quello che volevo mettere in evidenza è che dinanzi al tentativo di interruzione poi del Pride di Catania nel 2006 da parte della destra estrema, la reazione che fu tentò di sviluppare, che ci fu, ebbe volutamente da parte di facciamo breccia, dell'open mind stesso, un segno nuovo e un protagonismo da parte dei gay, delle lesbiche e delle trans, giusto, a livello di reazione che non fosse che fosse determinata, diciamo, il più possibile a non riprodurre dinamiche testosteroniche, maciste, eccetera. Noi gridavamo in piazza quando poi ci fu la contromanifestazione di settembre, diciamo, e il gaio antifascismo, no? L'antifascismo frocio, degenere, eccetera, che non scimmiotta e non fa entrare dalla finestra quello che è stato messo fuori dalla porta, cioè il macismo. E allora volevo, diciamo, porlo un po' come domanda, nel senso che poi dal momento che di storie così ce ne sono tante e purtroppo accomunano chi lavora nelle realtà e nei territori, volevo che venisse, se possibile, considerato come punto di riflessione comune. In un momento in cui abbiamo da un lato compagni e compagne che si appellano all'autodifesa, alle scelte di tutela della persona, giusto, per cui per non chiedere ai compagni etero sostanzialmente una mano nella tutela, nella difesa degli spazi, no? Quindi c'è chi va in Appennino, c'è chi va in montagna a farsi l'autodifesa, non lo sappiamo, c'è chi come me non sa fare assolutamente nulla, ma ho sempre rivendicato questo, sì, una frocia classica, insomma, ho sempre rivendicato questo aspetto, nel senso, non voglio adesso pormi il problema di non essere abbastanza antifascista perché non saprei neanche impugnare la bottiglia, probabilmente me la rompo in mano se devo dare una bottigliata, perché ho sempre pensato che questa cosa mi pone un attimo in contraddizione, dal momento che il corpo per me è un luogo anche di politica, per cui cioè il gettarlo a lei in mano ai fascisti, ho capito che c'è una causa di tutela, di difesa, e spero bene nelle circostanze estreme di volerlo fare, di farlo, ma forse non è quello che prioritariamente mi pongo come forma di autotutela e difesa degli spazi. Degli spazi intendo dei luoghi dove si fa politica, e poi può essere anche la strada, può essere qualsiasi luogo. E quindi, cioè, mi domando se magari qualcuno che ha partecipato alla riunione di ieri dove non c'ero, che parlava di pratiche, mi può forse confortare sul fatto di pratiche antifasciste che abbiano da percorribili, giusto, da parte di gay, lesbiche, trans, femministe, con rispetto l'olio bollente, un po' medievale, ma insomma, va bene, gireremo con l'olio. Però appunto che contemplino l'importanza della corporeità in tutta la sua complessità, nelle scelte, nelle relazioni, la trasformazione, eccetera, ma anche la necessità evidentemente di autotutelarsi, autodifendersi, perché nel momento in cui uno va, poi deve comunque essere subalterno a... in certi momenti, giusto, di difficoltà, a chi si critica dal punto di vista della fisicità, cioè può porre un po' di, insomma, come dire, di contraddizioni. Mi sono spiegato forse. Grazie. Io do le parole a una mala femmina che forse ha qualcosa da dire proprio su questo, credo, no? Intanto vi ringrazio per avermi invitata e partirò dagli interventi della Compagnia di Trento, dal tuo e anche da un po' da Sara. Innanzitutto sono molto contenta di intervenire dopo Sara perché io stimo molto la realtà dell'open mind, perché credo che non è unica a Catania, è unica in Sicilia. Questo a Palermo non c'è l'open mind, non c'è neanche una cosa che si possa avvicinare a una realtà come quella. C'era Lady Oscar, ma ora non c'è più Lady Oscar. E io un po' ho questa eredità delle Lady Oscar, che era un circolo dell'arcilesbica, la sento, perché le Lady Oscar sono una realtà molto diversa rispetto all'arcilesbica nazionale. Ora le Lady Oscar non c'è più, e a Palermo non ci sono più nessun tipo di realtà LGBT, eccetera, nessun collettivo e neanche nessuna associazione, vi devo dire. Quindi c'è proprio più che un ritorno al ghetto, c'è un ritorno alla vita notturna nascosta. E difficilmente noi riusciamo a portare donne e uomini al Pride, siamo sempre noi, le solite militanti e qualche militante dei centri sociali, che sentiamo il Pride come una cosa fondamentale del nostro percorso politico di ogni anno. Ero anch'io al Pride presente e ho vissuto tutta la tristezza incredibile di vedere il nostro corteo osteggiato e che non venivano spazzati via, insomma, chi si opponeva al nostro percorso. Ma ancora ho vissuto con gioia il corteo successivo che abbiamo fatto dopo 9 mesi, credo, a settembre. 3 mesi dopo, 3 mesi dopo abbiamo vissuto con gioia quel corteo, che è stato molto bello, insomma, credo che rimarrà. E aderiremo ovviamente al Pride dell'Open Mind, perché è ovvio che la pensiamo come Sara sul concetto che non è soltanto rivendicare orgoglio, ma è anche riappropriazione delle città e di tutti i contenuti che vogliamo mettere, insomma. Perché in Sicilia l'alleanza clerico-fascista diventa anche mafiosa. E quindi qui un po' si complica il panorama. E come si complica? Si complica il nostro studio delle male femmine a Palermo è quello di analizzare il controllo della sessualità sulle donne. E questo controllo della sessualità sulle donne vede da una parte le istituzioni, dall'altra i fascisti. E come? A Palermo c'è Casa Pound, c'è un gruppo di donne che si riunisce dietro la sigla Vita Peron, che si occupano di lottare a fianco del Movimento per la Vita contro l'aborto. A Palermo c'è un'altissima percentuale di obiezione di coscienza, ed è quello su cui noi di più lavoriamo, perché ci ritroviamo come collettivo femminista universitario a lavorare con le donne all'università, ma anche nelle scuole. E quindi ci occupiamo soprattutto di quello che è controllo della sessualità delle donne. E a Palermo la percentuale di obiezione è altissima, sfiora il 95%, il 90%. E questo rimanente 10-5% che non è obiettore deve coprire un territorio che non è soltanto della città, ma è della provincia. Noi abbiamo fatto un monitoraggio anche nelle farmacie, tra cui alcune farmacie si rifiutano di vendere, oltre che si rifiutano di vendere le pillole il giorno dopo, che è una cosa illegale, come sapete, perché non è una pillola abortiva. Alcune si rifiutano anche di vendere preservativi o anticoncezionali in genere, tra cui lo denuncio con malincuore, anche la farmacia di Rita Borsellino, candidata del centro-sinistra alla regione della scorsa legislatura. La sua farmacia di proprietà si rifiuta di vendere la pillola il giorno dopo. Quindi noi ci ritroviamo anche, come diceva prima la compagna, questo trasversalismo del sessismo e del controllo della sessualità non è soltanto di destra, ma anche di sinistra, perché è cattolico, e quindi anche molta della sinistra, insomma, si rivede in queste pratiche. Ci ritroviamo a essere ancora più lontane, distanti. Quindi una realtà, quella che viviamo, è abbastanza difficile. Noi esistiamo da circa 5 anni. 5-6 anni, abbiamo sempre lavorato in ambienti misti e anche lì ritroviamo un po' quello che diceva prima, la domanda che poneva prima il compagno di prima, cioè questo machismo che noi vogliamo uscire, cioè buttiamo fuori dalla porta e rientra alla finestra, perché è difficile affermare la nostra identità. la nostra, le nost- i nostri contenuti diversi, le nostre esigenze, i nostri corpi e il nostro immaginarci un mondo diverso. E tant'è che di recente a Cinisi, Graziella e Sara erano presenti a questa iniziativa che noi volevamo tanto costruire, ci siamo rese conto che i nostri spazi spesso vengono confusi o addirittura boicottati dai compagni maschi. E non era un luogo, era un forum sociale antimafia, un luogo in cui pensavamo fosse liberato da questa cultura mafiosa, perché la cultura la mafia è anche una cultura che si estende al di là di quello che noi possiamo immaginare, non è soltanto lo spaccio o il pizzo. Cioè la mafia è proprio una cultura che si radica attraverso il patriarcato e che fa parte dell'identità. È questo il vero nesso da rompere, probabilmente. E in questa iniziativa, che pensavamo potesse essere un luogo dove coinvolgere e parlare di antifascismo, grazie alla collaborazione che ormai da un anno ci vede dentro la breccia, che per noi insomma è fondamentale, perché il Vaticano arriva fino nella profonda Terronia. In questa iniziativa invece, dove doveva essere uno spazio liberato, c'è stato un po' siamo state messe da parte dai compagni di Peppino. E mi scuso anche con Sara, che non ho avuto la possibilità di parlarne, con le altre compagne, perché non siamo state forse abbastanza forti, non so, da imporci, però le cose cambieranno, diciamo. Quindi anche all'interno dei contesti dei compagni viviamo spesso queste condizioni di isolamento, perché non è facile e perché a Palermo siamo l'unico collettivo femminista che si occupa di queste tematiche. Questo, non so se volevi che dicessi qualcos'altro, non so. Per me sì, l'iniziativa è stata tipo 8 interventi, tutti diversi tra di loro. Dove, cioè, Sara parlava sempre del Pride, lei parlava dell'antifascismo della Breccia e altri compagni parlavano di immigrazione, tutto insieme, una specie di accorpamento. Sì, quando in realtà era pensata in un'altra maniera, cioè era pensata come pacchetto sicurezza, antifascismo e pratiche di resistenza. E quindi il Pride per noi è una pratica di resistenza, assolutamente, nel nostro ragionamento. Alla fine si è messo tutti insieme perché si pensava che si potesse coniugare, ma ovviamente non è così. Cioè, è vero che si può parlare di tutto, però non è questa, non era la sede adatta.